Faccio autoscatti da quando c'eran solo le cabine. Ma ora che tutti si fanno i selfie, mi sono rotto i coglioni. Ho ripreso a radermi le guance tutte le sante mattine. Da quando si fanno chiamare hipster al posto di barboni. Vivevo una casa di vetro prima del grande fratello spiato da dietro uno specchio confinato su un divano a fare giochi di parole sopra un ritornello prima che fosse normale rappare in italiano perché sono un can pastiano. 16 bianco faccio nero, 10 nero faccio l'indiano. Che sono un fiol, d'un can, bastardo. 16 freddo, dico caldo, se tu hai brividi io sto sudando. Da quando gli etero non fanno più sfoggio di villosità. Lascio tutti i peli crescere e non provo più imbarazzi. Niente tattoo se non sanno più di libertà. Ma sono il segno distintivo d'uno sfizio di subrette cagacazzi. Cucinavo porcherie e non ero a Masterchef. Buon per loro mi sarei fatto prendere la mano a rischiare il televoto pur di avvelenarne tre. Odio dei reality show, fa che cacchino anche l'ano. Perché sono un can bastiano. 16 bianco faccio nero, 10 nero faccio l'indiano. Perché sono un fiol, d'un can bastardo. 16 freddo, dico caldo, se tu hai brividi io sto sudando.